giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia diventa hub nazionale per lo smistamento dei materiali da inviare alle popolazioni terremotate della Turchia. I container provenienti dalle varie regioni dell'Italia partiranno tramite traghetto dal porto a Trieste, coinvolta anche la sede della Protezione Civile a Palmanova, dove il materiale sarà classificato e caricato. Cambiano le linee guida regionali sull'immigrazione. Nell'aula del Consiglio il centrodestra approva la nuova legge sull'immigrazione che modifica nella sostanza la legge precedente. Tempi lunghi per il rilascio dei permessi di lavoro e di soggiorno per gli extracomunitari che arrivano o risiedono da anni in Italia. Tra le cause, questioni burocratiche e scarsità di organico nelle questure, nelle prefetture. La segnalazione della CGIL di Udine. Il palazzetto dello sport di Chiarbola, Trieste, chiuso per motivi di sicurezza e dichiarato inagibile fino a data da destinarsi. Sospese tutte le attività sportive in corso. Preoccupazione espressa dai genitori di atleti di diverse società dilettantistiche. Case di riposo. Istituzioni, gestori e sindacati denunciano mancati investimenti del PNRR. Pesanti incognite per il futuro, il grido d'allarme è emerso nel confronto organizzato a Trieste dall'UNEBA. È dedicato al giornalismo e ai nuovi media il ciclo di 3 incontri che partiranno oggi all'Università di Udine. Si parlerà dello stato dell'informazione e dei rischi o dei vantaggi per la professione offerti dai nuovi strumenti tecnologici come l'intelligenza artificiale. Da oggi in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il berretto a sonagli di Pirandello, con protagonista e regista Gabriele Lavia, che ci parla del suo rapporto stretto con i teatri della regione. Le 7:20 minuti, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e da Dario Ronzoni, che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 15 febbraio. Prima di cominciare con le notizie, diamo come sempre però uno sguardo alla situazione del meteo con le previsioni per oggi. Il cielo è sereno sulla regione. Le temperature registrate alle 6, a Trieste 7 gradi, a Gorizia 5 gradi e mezzo, a Udine e Pordenone 5 decimi di grado sotto lo zero, a Piancavallo 1 grado e 5 decimi, a Tolmezzo 5 decimi di grado sopra lo zero, a Forni di Sopra 6 gradi, a Tarvisio meno 5, a Sappada meno 1 grado e 5 decimi. Sul Monte Lussari 6 gradi, 7 gradi sul Monte Zoncolan. Passando alla costa abbiamo 4 gradi e mezzo a Grado e 7 gradi e 5 decimi a Lignano. E le previsioni per oggi, cielo sereno su tutta la regione, sul Carso e a Trieste soffierà Borino. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.000 metri con temperature eccezionalmente alte per il periodo in quota. Mentre continua dunque a salire purtroppo la conta di morti nel terremoto in Turchia e si continua ancora a scavare per riuscire a trovare qualche superstite ancora vivo sotto le macerie, tutta l'Europa è mobilitata per l'invio di aiuti umanitari alla popolazione devastata dal sisma. Quelli provenienti dall'Italia passeranno dal porto di Trieste, così come richiesto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile a fronte della disponibilità data dalla regione. Il Friuli Venezia Giulia diventa piattaforma a livello nazionale per lo smistamento dei materiali da inviare alle popolazioni terremotate in Turchia. I container provenienti dalle varie regioni dell'Italia andranno direttamente in porto a Trieste per essere imbarcati, mentre il materiale sfuso arriverà nella sede della Protezione Civile di Palmanova, dove sarà classificato e caricato sui semirimorchi per l'invio in Turchia tramite traghetto. Il porto di sbarco sarà quello di Mersin. A renderlo noto il presidente Massimiliano Fedriga e il vicepresidente e assessore con delega alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che fin da subito hanno dato la disponibilità della regione. Dopo la gestione dell'Hub Nazionale per l'Emergenza Ucraina, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha avuto un nuovo incarico di coordinamento, confermandosi nel ruolo di punto di riferimento ed eccellenza. Intanto sono ancora operativi in Turchia il team di Vigili del Fuoco e cani da ricerca dispersi in macerie partiti nei giorni scorsi. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella penultima seduta prima delle elezioni, il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge sull'immigrazione, che modifica nella sostanza la legge precedente, passata con i voti della maggioranza e senza l'apporto del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle. Passa con i soli voti della maggioranza la legge sull'immigrazione che sostituisce quella del 2015 voluta dal centrosinistra. Se allora si parlava di accoglienza solidale e integrazione, il testo approvato dal centrodestra cambia i toni. Legalità e mitigazione dell'impatto sociale sono le parole d'ordine. dalla regione contributi per finanziare progetti di contrasto alla radicalizzazione, alla dispersione scolastica e alla segregazione delle donne nelle famiglie. Antonio Caligaris, Lega. Si fissa il principio che bisogna fare delle azioni positive e aiutare le donne straniere per la parità dei loro diritti nelle comunità straniere, che è il vero problema, credo, delle donne in regione, delle donne straniere in regione. Novità anche per i minori non accompagnati, fissato un tetto al contributo regionale per il pagamento delle rette per la gestione del minore. La legge istituisce un elenco di mediatori culturali che dovranno rispettare una serie di requisiti. Dall'opposizione attaccano, è una legge dal sapore elettorale, non affronta il tema della necessità di attrarre lavoratori, come segnalato dalle associazioni di categoria. Chiara Dagiau, Partito Democratico. In questa legge per principio si stigmatizza la presenza degli stranieri, indicando negli stranieri stessi la fonte di ogni problema che questa regione ha, come se tutti fossero irregolari, come se tutti gli stranieri fossero dei delinquenti. Nel frattempo è cominciata la trattazione dell'ultima legge omnibus della legislatura, con una polemica sollevata dal Movimento 5 Stelle per gli emendamenti della Lega sulla caccia. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E gli extracomunitari che arrivano in Italia o che vivono nel paese stanno incontrando sempre maggiori difficoltà per vedersi riconoscere i ricongiungimenti familiari, i permessi di soggiorno o i documenti necessari per lavorare. Tra i motivi anche la penuria di organici delle questure. Nelle prefetture nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciati anche dopo 6 mesi invece che nei 90 giorni previsti per legge. Nelle questure anche 4 mesi per l'appuntamento delle impronte digitali, altri 6 per il permesso di soggiorno. A volte i documenti, validità biennale, arrivano già scaduti o quasi scaduti. In tanti hanno perso opportunità lavorative, denuncia lo sportello diritti cittadinanza della CGIL. Yeon Kar On ha detto allo sportello. Il datore del lavoro ha detto, sì, visto che no, attesa è così tanto, come so io no, che hai qualcosa che non va con penale, tutto questo. Su affitti no, ci sono tanti proprietari di casa, ma chiedono permesso di soggiorno. Emiliano Giareghi, segretario generale della CGIL di Udine. Stiamo parlando di migliaia di persone presenti da anni nel nostro territorio che lavorano insieme a noi nelle fabbriche, nel terziario, un po' ovunque, che di 2 anni in 2 anni devono ricominciare la trafila per avere un regolare permesso di soggiorno. Questo in una fase in cui ci si lamenta della carenza di lavoratori e dentro uno scenario di prospettiva che denuncia il calo demografico. Da gennaio il mancato rinnovo del personale interinale ha aggravato i ritardi, dovuti anche al mancato turnover fra pensionamenti e ingressi nelle forze di polizia. In prefettura a Udine le pratiche per i congiungimenti, ma anche per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, erano curate da 4 persone. Persi 3 interinali, ne rimane 1 solo. A Trieste, riferisce Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del sindacato SAP di polizia, l'ufficio immigrazione in cui lavorano 30 poliziotti ha perso 10 di interinali. Il lavoro non manca di certo. I cosiddetti rintracci da parte della polizia di frontiera a gennaio sono decuplicati e in coda, nelle questure anche a Udine, i migranti si mettono in fila per le presentazioni spontanee. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha rigettato i ricorsi presentati contro l'insediamento della Cronospan nella zona industriale Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento. Soddisfatto il presidente di Confindustria Agrusti, che ricorda come la multinazionale abbia deciso di investire a Ponte Rosso anche in virtù di un'infrastruttura ferroviaria adeguata alle politiche green dell'azienda e che l'ampliamento previsto vale 280 milioni di euro e prevede l'assunzione di 210 persone. Secondo il presidente, i pronunciamenti del TAR hanno fatto emergere il diritto costituzionale a fare impresa. Soddisfatti anche i vertici del consorzio industriale di Ponte Rosso. Opposta invece la reazione del comitato che si è battuto contro il progetto contestato per il suo impatto ambientale e paesaggistico. Le sentenze si rispettano, ha dichiarato Eleonora Frattolin, portavoce del comitato ABC. Ma le nostre azioni continueranno, questo è solamente un rigetto di uno dei ricorsi che abbiamo presentato, attendiamo la decisione per quello più importante che in sintesi riguarda l'autorizzazione vera e propria sull'intero progetto ancora pendente al TAR e la cui decisione dovrebbe arrivare a giugno. È annunciata la presenza del ministro d'agricoltura Francesco Lollobrigida al convegno inaugurale di Acquafarm e Novel Farm, la mostra internazionale su acquacultura, algocultura, industria della pesca, nuove tecniche di coltivazioni, fuori suolo e vertical farming. Inizio alle 10 alla Sala del Pesce, al padiglione quarto alla Fiera di Pordenone. E parte oggi il ciclo di incontri dal titolo Stato dell'Unione, quali prospettive per un mondo migliore, cui partecipa il Centro di Documentazione Europea Guido Commessatti dell'Università di Udine. Il primo appuntamento sarà dedicato alla presentazione del discorso sullo Stato dell'Unione. Interverranno Massimo Pronio, responsabile comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, insieme ad Alessandra Lang, docente di diritto dell'Unione Europea a Milano. Inizio alle 10.30, gli incontri potranno essere seguiti in diretta su canale e YouTube della rete. Un confronto sulle incognite e sulle difficoltà crescenti che pesano sulle case di riposo e sulle RSA è stato organizzato a Trieste dall'UNEBA, l'organizzazione che raccoglie istituzioni e iniziative di assistenza sociale. Sentiamo cosa ne è emerso. Devono fare i conti con i grandi temi della sostenibilità del sistema sanitario e di quello previdenziale da una parte, con il disegno di legge delega sulla non autosufficienza dall'altra, e sono state dimenticate dal PNRR, come lamenta Franco Massi, presidente dell'Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale, che ha previsto solo 400 milioni di euro per convertire reparti e posti letto di RSA in alloggi protetti. Sono diverse le incognite che pesano sul futuro delle strutture per anziani, sulle quali l'UNEBA ha chiamato a confronto a Trieste istituzioni, gestori e sindacati in un incontro moderato dal presidente regionale Matteo Sabini. Sono state dimenticate il PNR perché si è voluto dimenticarle. Adesso si tratta di recuperare con pochi soldi, ma cercando di far capire alle autorità, con lo sforzo e l'impegno di tutte le comunità, che le residenze sono centrali nella vita dell'anziano e quindi della famiglia e quindi delle comunità locali nel loro insieme. In una regione come il Friuli Venezia Giulia, seconda in Italia per anzianità dei residenti, uno dei temi chiave è poi quello della gestione della cronicità, alla quale è necessario dare risposte non solamente sanitarie. Per le strutture, insomma. Le sfide sono tantissime in questo momento perché sono prima di tutto culturali, dare senso all'opera assistenziale. Poi sono economiche, evidentissime, e poi sono organizzative e formative. L'obiettivo è quello di avere un gruppo di strutture sempre più moderne, ma non nel senso solo tecnologico, ma sempre più moderne nel senso della generosità, della disponibilità. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Da lunedì sera il Palazzetto dello Sport di Chiarvola a Trieste è chiuso per motivi di sicurezza in seguito a un sopralluogo dei Vigili del Fuoco che hanno dichiarato la struttura non più agibile per problemi tecnici legati alla gestione di eventuali emergenze. Secondo quanto emerge, il problema deriverebbe da alcune difformità di natura strutturale, impiantistica, gestionale ai fini dell'emergenza e di utilizzo dell'impianto da parte di più società sportive. La decisione ha comportato la sospensione immediata di tutte le attività, compreso l'allenamento della Palamano Trieste e quello di alcune associazioni sportive dilettantistiche, dal pattinaggio al pugilato fino al taekwondo. Interpellata in merito, l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi ha affermato che si sta lavorando per adempiere alle prescrizioni imposte dai Vigili del Fuoco e che la chiusura non è dovuta a questioni legate a spandimenti o agli interventi in programma sul tetto. L'obiettivo, ha aggiunto Lodi, è di arrivare alla riunione della Commissione Pubblico Spettacolo che si terrà entro la settimana, avendo adempiuto a tutte le richieste. Sul problema interviene il consigliere del PD Luca Salvati che chiede a sindaco e assessore di chiarire come si è arrivati a questa situazione e parla di una grave mancanza di manutenzione. Si aprono, si legge in una nota, legittimi interrogativi sullo stato di salute e sulla sicurezza di tutti gli impianti sportivi comunali. Da segnalare una nota scritta dai genitori degli atleti della società Nuova Oma di pattinaggio artistico, dove si allenano anche persone diversamente abili, che parla di problematiche mai risolte tra pozzanghere sul parquet e soffitti pericolanti, e di preoccupazione anche in vista delle prossime competizioni in programma a partire dalla gara del circuito PGS prevista il 26 gennaio, febbraio. Il questore di Trieste ha disposto la chiusura per motivi di ordine e sicurezza pubblica per 12 giorni di un locale in via Rismondo, con conseguente sospensione dell'attività di somministrazione di bevande alcolici. Nella tarda serata di domenica scorsa, la squadra volante e il personale sanitario del 118 erano intervenuti a seguito di un'aggressione ai danni di un cliente del bar che ha visto coinvolti più avventori, uno dei quali, un 45enne, colpito alla testa da una bottigliata per mano di un altro cliente, motivo per il quale il responsabile dell'aggressione, un cittadino colombiano di 39 anni, è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Manca poco più di un mese all'arrivo della primavera e il castello di Miramare è pronto ad accogliere la nuova stagione turistica con nuove fioriture e importanti novità. La primavera farà rivivere il parco e il castello di Miramare in nuovi colori e nuovi spazi. Nelle prossime settimane nel giardino di Massimiliano e Carlotta inizieranno a sbocciare quelle varietà di piante e fiori che la coppia aveva collezionato anche sulla carta e che sono riproposte nella mostra Ars Botanica, ma nei prossimi mesi l'intero complesso museale offrirà importanti novità. Andreina Contessa, direttrice del Parco e del Museo di Miramare. Sarà un anno vivacissimo, sarà un anno in cui, come dire, portiamo a casa il lavoro già fatto, quindi con tante inaugurazioni di lavori e di restauri che sono iniziati lo scorso anno e anche prima, quindi il castelletto, ma il Mira Lab nelle sere nuove, quindi per la prima volta storicamente uno spazio didattico dedicato ai bambini che verrà inaugurato a marzo, poi segue il castelletto, appunto le cucine antiche. All'apertura al pubblico delle serre, delle cucine e del castelletto saranno abbinate anche una serie di incontri. Con lo scienziato Stefano Mancuso, che studia l'intelligenza vegetale, interverrà quindi sulla botanica del terzo millennio Pierluigi Nimis dell'Università di Trieste. Le erbe e i fiori saranno protagonisti anche degli incontri con la chef Antonia Klugman, con il profumiere Lorenzo Dante Ferro e con l'artista Massimo Gardone. E ancora tanti gli interventi previsti nel parco, che si allargherà. A breve sarà infatti perfezionato l'acquisto di un'importante porzione di terreno adibito attualmente a vivaio, che ora si incunea nella superficie del parco. Sarà così possibile apprezzare il parco nella sua interezza paesaggistica. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. La transizione verde e digitale per la manifattura sarà al centro di un incontro a Udine con cui si darà avvio all'attività del progetto INEST, una rete che collega enti di ricerca pubblici e privati per diffondere i progressi delle tecnologie digitali nel Triveneto. Il sistema è stato costituito nell'ambito del PNRR, conta 24 partner e ha il suo centro di coordinamento a Padova. Inizio alle 10.30 nel Polo Scientifico di Via delle Scienze, con la sessione plenaria mattutina nel pomeriggio dalle 14 alle 16, previsti tavoli di lavoro dedicati ai temi di ricerca del progetto, tra i quali energia, smart manufacturing, meccatronica e robotica. E invece è dedicato a giornalismo e nuovi media il ciclo di 3 incontri da oggi fino al 17 febbraio con Gabriele Cruciata di Google News Initiative all'Università di Udine. Nel corso degli incontri si parlerà di fact-checking, data journalism, podcast e altro ancora. Il primo incontro è in programma oggi dalle 9 alle 11 a Palazzo Antonini in Sala Gusmani. Gli appuntamenti, coordinati da Marco Fucecchi e Dario De Santis, sono organizzati dal Dipartimento di Studi Umanistici e dal patrimonio culturale. Con noi Gabriele Cruciata ha indagato gli effetti delle nuove tecnologie sul giornalismo e ha spiegato come il giornalismo stesso dovrà cambiare per sopravvivere. Il giornalismo con l'avvento della tecnologia, secondo me, ha avuto il grande problema della trasformazione del suo business model, perché è cambiato il modo in cui i giornali guadagnano. E questo è stato, in realtà, almeno in Italia, è stato un problema, perché non si è trovato un modo alternativo che fosse altrettanto stabile come il precedente, però dall'altro lato ha dato uno strumento, secondo me, molto importante ai giornalisti, che è quello di poter avere un rapporto diretto con i lettori. Cioè, noi oggi, per esempio, utilizzando metodi multimediali, interattivi e vari strumenti, possiamo consentire al lettore di avere accesso alle stesse informazioni utilizzate da noi per i nostri lavori. E quindi possiamo creare dei rapporti di fiducia più stabili e migliori rispetto al passato. Non c'è il rischio che i giornalisti vengano anche scavalcati con queste nuove tecnologie? No, secondo me no, nel senso che esistono delle tecnologie, ad esempio i software di scrittura, l'intelligenza artificiale, eccetera, che potrebbero creare questo problema, ma scavalcati secondo me no, o meglio, i giornalisti non verranno scavalcati fin tanto che continueranno a offrire un servizio degno di questo nome alla popolazione. Poi se dovessero smettere probabilmente verrebbero scavalcati. Quindi ChatGPT non farà fuori i giornalisti? Secondo me no, secondo me aiuterà i giornalisti a lavorare in modo più efficiente, trasformerà profondamente il mondo del giornalismo, ma non lo distruggerà. E cosa bisogna fare per essere pronti a questo cambiamento, secondo lei? Secondo me bisogna studiare un sacco, nel senso che bisogna cambiare la formazione dei giornalisti a partire dai livelli proprio di accesso alla professione, e dovremmo cambiare la nostra cultura, cioè dovremmo digitalizzarci, ma non in senso dell'utilizzo degli strumenti, nel senso di comprensione degli strumenti, cioè di comprensione del nuovo ruolo che i giornalisti possono avere all'interno della società, che è una società molto più tecnologica e digitalizzata. Oggi a Trieste, in occasione della 22esima giornata mondiale contro il cancro infantile, la Fontana del Nettuno di Piazza della Borsa sarà illuminata di giallo-oro. La giornata è stata scelta dall'OMS per sensibilizzare ogni anno riguardo le problematiche dei bambini e degli adolescenti con tumore e delle loro famiglie. Il sistema messo a punto per coltivare le verdure in orbita sta avendo ultimamente delle applicazioni sulla Terra, studiate anche dall'ERSA. C'è chi nega che l'uomo sia mai arrivato sulla Luna, altri che giudicano inutile l'avventura nello spazio. Sulla Terra però sono tante le applicazioni di quanto è stato inventato per le imprese degli astronauti. Anni fa è stata sperimentata la coltivazione di vegetali in orbita. Il problema era però che il terriccio non si disperdesse nella stazione orbitante. È stato allora brevettato un polimero che lo compattasse. Operazione conclusa con successo. Poi si è tornati sulla Terra e questo polimero, liberato dal brevetto NASA, sta entrando nelle prassi floricole e orticole. Siamo andati nel laboratorio Substrati dell'ERSA di Pozzuolo del Friuli, dove il gruppo di lavoro del dottor Costantino Cattivello sta testando i suoi vantaggi terrestri in campo e laboratorio. Permette di ridurre drasticamente i costi di produzione e di permettere una meccanizzazione spinta delle prime operazioni culturali, soprattutto il trapianto e anche l'innesto. È un'azione aggregante, fa sì che non ci sia uno sfaldamento del pan di terra nel momento in cui la piantina molto giovane viene estratta meccanicamente da robot. Quindi minor tempi, minor spazio e soprattutto minori costi. Assolutamente, che chiaramente è uno degli aspetti che aveva in un primo tempo penalizzato questo tipo di prodotti. E poi va anche detto che gli ultimi derivati sono biodegradabili nel giro di poche settimane, per cui non ci sono riflessi di ordine ambientale. Alcune aziende anche in Italia cominciano già a usarlo? Sì, certamente. Al momento soprattutto in ambito floricolo, quindi specie abbastanza delicate o costose, ma anche in ambito orticolo sta prendendo sempre più piede. Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli, l'attore e regista Gabriele Lavia torna in Friuli Venezia Giulia portando uno degli autori teatrali che ama di più, Luigi Pirandello. Da oggi fino al 16 sarà in scena Il berretto a sonagli al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, spettacolo di cui Lavia stesso sarà anche regista. Inizio alle 20:45. La tragicommedia dell'autore siciliano mette in luce il dramma dell'ipocrisia e la difficoltà, a volte l'impossibilità, di dire la verità, soprattutto se si è donne. Gabriele Lavia ne ha parlato ai nostri microfoni, spiegando tra le altre cose anche il suo modo originale per scegliere i lavori da portare in scena. In questo momento mi trovo a Udine, è una città bellissima, il teatro è un bel teatro, forse un po' troppo grande, per me qui è sempre bello proprio per la ragione, a me piace andare nelle città dove i teatri sono belli. Anche se dovessi andare in una città che amo tantissimo, ma il teatro è brutto e lo spettacolo che faccio non ci entra, non sarei felice ad andarci. Tornare a Pirandello scrive questo testo, Il berretto a sonagli, che ha un titolo ovviamente simbolico, se vogliamo, perché il berretto a sonagli è il berretto del pazzo. E chi è pazzo? Chi dice la verità? E che cosa scrive? Scrive un testo dove la protagonista, cioè colei che rimane in scena dall'inizio alla fine, è una donna. Questa donna verrà dichiarata pazza e probabilmente messa al manicomio. Perché? Perché dice la verità. insomma, è un genio, un grande autore. Io lo amo perché, peraltro, questo testo, come scelgo i testi? Spesse volte mi fanno questa domanda, ma lei come sceglie il testo? Ma uno dei metodi che io trovo buoni, per me almeno, è quello di andare nello studio dove c'ho tutti i libri, girare su me stesso fino a quando mi gira un po' la testa, puntare il dito e andare dritto. Io so che i libri di teatro, i testi, sono tutti più o meno a un'altezza, l'altezza è quella un po' sopra i miei occhi, mi giro e vado dritto e in genere mi fermo nel punto giusto. Quindi un destino, diciamo. C'è un destino, ma c'è una necessità del destino anche, e quindi era un destino necessario. Paolo Rossi a Codroipo, l'attore, regista e cantautore di origine monfalconese, torna in regione con il suo spettacolo Scorrettissimo Me, che unisce stand-up, comedy e commedia dell'arte. In scena questa sera al Teatro Benoit de Cecco alle 20.45. Prima della performance di Rossi, l'attore incontrerà il pubblico nel foyer del teatro per parlare dello spettacolo. Inizio alle 18.30. È in programma stasera a Trieste, nell'unica tappa in regione, il recital Eleganzissima con Drusilla Foer, il personaggio interpretato da Gianluca Gori. Lo show, che si definisce irriverente e antiborghese, racconta episodi della fantomatica vita di Drusilla Foer tra Italia, Cuba, America ed Europa, e si intreccia con l'esecuzione di brani di Brel, Gaber, Iannacci e Amy Winehouse. Inizio alle 20.30 al Teatro Rossetti di Trieste. L'associazione Cross Border Film School ha presentato al Kinemax di Gorizia i risultati del questionario territoriale per l'audiovisivo, un'analisi che evidenzia come il sistema cinematografico transfrontaliero Italia-Slovenia è diventato una realtà attrattiva ed efficiente. 262 professionisti, maestranze, aziende ed associazioni hanno risposto al questionario territoriale per l'audiovisivo, delineando un quadro solido e strutturato del settore che parte dagli istituti di formazione come la Cross Border Film School di Gorizia, sviluppa progetti come Sistema Cinema Training and Empowerment e veicola poi le produzioni attraverso la Film Commission FVG, che con un proprio approfondimento ha valutato l'impatto economico dell'indotto cinematografico in regione, passato da 7.900.000 nel 2004 a 15 milioni nel 2022. Antonella Perrucci di Cross Border Film School Gorizia. Emerge che secondo i professionisti, le aziende e le associazioni del settore cinematografico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, le strategie più importanti per far crescere il territorio dal punto di vista trasfrontaliero sono maggiori finanziamenti dedicati alle coproduzioni Italia-Slovenia, una maggiore formazione in lingua inglese e il potenziamento delle strutture e il service per le produzioni cinematografiche. I risultati del questionario costituiscono il primo database per il manifesto dell'economia del cinema in Friuli Venezia Giulia. Paolo Vidali, direttore del Fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia. Nei titoli di coda ci sono centinaia di nomi, perché per fare un film occorrono centinaia di persone, e senza quelle centinaia di persone il film non si fa. Il regista non basta, non basta l'attore. Credo che capire questo significa anche capire che c'è bisogno di formazione. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo allo sport, il sci. Beatrice Sola e Lara Della Mea non parteciperanno alle qualificazioni della gara individuale di parallelo dei campionati mondiali di sci alpino di Courchevel. Le due azzurre, che ieri sono state impegnate nel parallelo del team event, subito dopo la gara hanno annunciato il loro forfait. Biathlon, Lisa Vittozzi sarà al via della 15 km individuale, che si disputerà con inizio alle 14.30, diretta su Rai Sport. In questa edizione della rassegna ridata, la Vittozzi è già salita sul podio della staffetta mista, conquistando una medaglia d'argento. C'è una notizia anche di basket, con l'americano Gaines che lascia la pallacanestro Trieste e si trasferisce in Francia con la formazione dei Bayers di Fos-sur-Mer. La società non si opporrà al suo trasferimento ed è già caccia del suo sostituto. Alle 7:47 minuti e 15 secondi cominciamo la nostra rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. L'elettricità del futuro, patto tra la città e il porto. Al via il progetto Smart Grid presentato da Cegas a PS Amga e finanziato dal PNRR. Città sempre più elettrica, Cegas e Authority alleate, un pacchetto da 33 milioni scatta l'operazione per integrare dal punto di vista energetico l'area urbana con lo scalo marittimo. La partenza prevista a fine anno. A centropagina poi una fotonotizia sull'inquinamento acustico del Golfo. Troppo rumore, i pesci perdono l'udito come in una discoteca. L'allarme degli esperti sugli effetti di attività portuali e via vai di barche e traghetti. A rischio il senso più importante per la sopravvivenza delle specie sottomarine. I vigili del fuoco chiudono il Palachiarbola per problemi tecnici legati alla gestione di eventuali emergenze, comune al lavoro, difficoltà per 14 società in crisi senza i loro spazi. Così si ingrandisce il parco di Miramare, che diventa più grande con i 4.500 metri quadrati dell'ex area Sgaravatti. In via di definizione l'acquisizione dell'area grazie a fondi ministeriali, presentato inoltre il programma 2023 di attività e nuove aperture. E poi Batchi, allenerò e farò la mamma. La pluricampionessa di tuffi a giugno diventerà mamma e ora parte la sua sfida da allenatrice. Voglio trovare a Trieste, dice la Batchi, i nuovi futuri campioni. In apertura del Messaggero Veneto nell'edizione di Udine, i dati positivi della stagione sciistica. Nei primi due mesi dell'anno si registra infatti un aumento delle presenze del 12% sul 2022 e del 17% rispetto all'epoca pre-Covid, con oltre 408.000 presenze. A fianco in prima pagina la fotonotizia sugli aiuti per la Turchia, colpita dal sisma. Il centro smistamento nazionale è a Palmanova, mentre i soccorsi partiranno da Trieste. Spazio anche per la festa di San Valentino in Borgo Pracchiuso e per la condanna per un totale di 18 anni per i tre rapinatori che 4 anni fa hanno speronato l'automobile della polizia durante la fuga. Mentre in televisione sono stati più di 4 milioni gli spettatori di Teresa Battaglia, invenzione della scrittrice gemonese Ilaria Tutti. Il Gazzettino, nell'edizione di Udine, apre con l'interessamento di Fincantieri nei confronti di Cimolai. Il prossimo passo è l'analisi dei bilanci e poi via libera per il lavoro di restauro della lanterna di Diogene, la fontana ottagonale in piazza Matteotti a Udine. E si parla anche delle polemiche per l'impiego dei social istituzionali da parte del Comune, usati per raccontare quanto fatto durante il mandato. Infine lo sport con l'Old Wild West, che guarda al mercato per cambiare uno dei due americani. Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, i collegamenti per Gorizia Capitale, treni veloci fino a Venezia per i trasporti di Go 2025. Il piano, elaborato dalla Regione, prevede 30 giornate di convogli speciali. La lunetta ferroviaria di Selze ridurrebbe i tempi di percorrenza ed eliminerebbe il cambio a Monfalcone. Sul tavolo anche 30 giornate di convogli speciali, come nelle giornate dedicate a gusti di frontiera. Il pasticcio sulla tassa rifiuti mette in bilico 1,2 milioni, un inghippo nella trasmissione a Roma avvenuto nel periodo dell'attacco hacker. L'assessore Beltrame dice sono in corso le verifiche, se non c'è allora la cifra è da coprire. Dalla cronaca di Monfalcone, ecco il bilancio di Cisint da 110 milioni. Il documento arriva in Consiglio Comunale, prevede investimenti su istruzione e cultura, quasi 10, quelli riservati per i cantieri, in primis delle scuole Sauro e Randaccio, più quelli riservati al teatro. Il sindaco dice nessun ritocco delle tariffe per i servizi, in compenso estingueremo i mutui del passato. Un'altra auto rubata a Ronchi, ladri inseguiti dai carabinieri, il proprietario ha lanciato l'allarme, la Peugeot è stata bloccata poi in via Timavo. I malviventi in fuga all'Isert si sono dileguati a piedi rincorsi dai militari dell'arma. L'apertura del Messaggero Veneto di Pordenone è per la Cronospan a San Vito al Tagliamento con il via libera del TAR all'investimento di 280 milioni. La fotonotizia, oltre a quella degli aiuti per la Turchia, anche per il grave incidente che ha coinvolto un motociclista a San Quirino. C'è poi l'incendio che ha bruciato il tetto dell'agriturismo Il Curtivo a Fratta di Caneva con danni pesanti e la fuga di una decina di clienti. E poi la condanna per spaccio e detenzione di droga per l'ex sindaco di Arba insieme ad altre due persone. Sul Gazzettino, edizione di Pordenone, anche qui apertura dedicata a Fincantieri, interessata a Cimolai, mentre resta fermo per 4 giorni lo stabilimento Electrolux di Porcia, con gli operai in cassa integrazione, in un periodo in cui i volumi sono molto bassi. Il primo giorno sarà il 17, gli altri il 21, il 22 e il 23 febbraio. Si parla anche del progetto che coinvolge i militari americani della base di Aviano per insegnare inglese all'elementare di Gjais e Aviano. Le prime lezioni, si dice, sono state accolte con curiosità, mentre per lo sport ieri è stata una giornata perfetta per il volley pordenonese con le vittorie delle formazioni locali. Uno sguardo agli appuntamenti della giornata. Cominciano oggi quelli di anteprima dedica 2023 con 11 tappe in altrettanti comuni del Friuli Venezia Giulia. La prima tappa a Pordenone con dedica a Meli De Cairangal, introduzione all'autrice a cura di Anna Maria Manfredelli con letture dell'attrice Carla Manzon e accompagnamento musicale della violoncellista Elisa Fassetta. Inizio alle 18.15 nella sede aziendale Mare Verde di servizi CGN. Si intitola Da Porzus a Bosco Romagno, il libro con cui Paolo Strazzolini racconta la tragica fine di Guido Alberto Pasolini, fratello minore di Pier Paolo, nel contesto di uno dei fatti più gravi sulla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il volume sarà presentato oggi a Premariaco nella sala del centro di aggregazione giovanile alle 17.30. L'ex giocatore della Triestina Andrea Mitri torna al mondo del calcio con 24 racconti brevi raccolti nel libro Poco sesso, niente droga e qualche gol, storie ispirate alla sua carriera di calciatore negli anni 80. In dialogo con Stefano Rizzardi e con ospite Massimo Giacomini, allenatore che negli anni 70 portò l'Udinese dalla Serie C alla Serie A, inizio alle 18, la libreria Friuli. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano WF Velin che parlerà della ciclovia Alpe Adria Radweg. Alle 11.20 circa in onda Volo Radente, spazio poi al nuovo nucleo Alzheimer dell'azienda pubblica di servizi alla persona a casa per anziani di Cividale del Friuli. Infine a Martignacco in un bar caffè che ha fatto dei gatti la sua fonte di attrattività e benessere. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. Ed è tutto per questo appuntamento con il GR che è stato redatto e condotto da Dario Ronzoni e Giorgio Beerz con la collaborazione tecnica di Eugenio Giuffrida. Ha collaborato in redazione Laura Serasini. Prossimo appuntamento alle 12.30. Grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.